Salva Danaio di Deborah Rosciani. E un buon inizio settimana a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Allora, sembra che statisticamente parlando, da aprile a luglio venga avviata quasi la metà dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione degli immobili nel nostro paese. È chiaro, nella scelta dei tempi conta molto, oltre alla disponibilità finanziaria, anche la condizione meteorologica. Tra la primavera e l'estate, le giornate più lunghe, è chiaro che diventa tutto probabilmente più agevole. Quello che va ricordato, ma lo sanno bene le famiglie italiane, è che da qualche anno a questa parte gran parte dei lavori di riqualificazione del patrimonio edilizio sta beneficiando di sconti fiscali corposi, dei quali hanno approfittato migliaia di famiglie e migliaia di contribuenti. Il 55% per la riqualificazione energetica, appunto, della casa, dell'immobile, il 36% per la manutenzione straordinaria e risanamento conservativo, l'IVA ridotta al 10%. Temi che abbiamo affrontato a Salva Danaio decine di volte, però siccome la casistica dei lavori è estremamente articolata, oggi abbiamo deciso di ritornarci anche e soprattutto per approfittare della nuova guida pratica che esce oggi con il Sole 24 Ore. Lavori in casa e bonus fiscali, istruzioni per l'uso, guida che peraltro ha anche una interessantissima novità e già immaginiamo che ne approfitterete senz'altro: l'abbinamento ad un corposo dossier online. Ci spiegherà tutto questa mattina il curatore di tutto questo lavorone, che è Cristiano Dell'Oste. Cristiano, bentornato a Salva Danaio, buona giornata. Buongiorno a tutti. E per le domande invece, le vostre curiosità di natura prevalentemente tecnica e fiscale, questa mattina ovviamente abbiamo a nostra disposizione anche due esperti: dottor Marco Zandonà, direttore dell'ufficio fiscalità edilizia dell'ANCE ed esperto di questioni fiscali per il Sole 24 Ore. Dottor Zandonà, buongiorno e ben ritornato a Salva Danaio. Buongiorno a tutti. E più tardi ci collegheremo anche con l'ingegner Giovanni Gasparini, presidente del Centro Studi Tecnico Urbanistici dell'associazione Confabitare. Come sempre vi invitiamo ad arricchire con i vostri casi e le vostre domande la nostra trasmissione. Chiamateci all'800 24 00 24 oppure scriveteci al 349 238 6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Alle vostre domande risponderemo noi, ma avete anche un altro canale per rivolgere i vostri quesiti, e già di questo canale ne hanno approfittato almeno oltre un centinaio di utenti. Cristiano, ancora buongiorno. Allora, ricordiamo intanto il funzionamento della guida pratica, quello tradizionale che conosciamo ormai da diversi mesi, e poi l'arricchimento con il dossier online. Certo, abbiamo appunto in edicola con il giornale di oggi questo inserto, che appunto è all'interno del quotidiano e che sono 7 pagine dedicate alle agevolazioni fiscali per chi ristruttura gli immobili. E poi, abbinato a questo inserto, c'è il forum online, che è una formula ormai collaudata, è più o meno un anno che procediamo in questo modo. Fino alle 6 di questo pomeriggio è possibile collegarsi al sito internet del Sole 24 Ore, inserire i propri quesiti. Le risposte saranno pubblicate, diciamo, per quelle ai quesiti di interesse generale già sul giornale di domani, le altre poi ancora online a partire da mercoledì. L'indirizzo è www.ilsole24ore.com/guidacasa. A questo indirizzo si trova anche la possibilità di accedere al dossier online, che è a pagamento, sono 4 euro, e in questo dossier si trovano una serie di contenuti extra che completano, diciamo, la parte cartacea. Ci sono video con gli esperti, con Marco Zandonà, che abbiamo anche al telefono, che è uno dei nostri autori, e con Luca De Stefani. Ci sono ovviamente i facsimile della modulistica, delle fatture per l'IVA agevolata, e ci sono le istruzioni per compilarli, quindi la dichiarazione, la comunicazione di inizio lavori per il 36% all'Agenzia delle Entrate e i principali riferimenti normativi, quindi leggi, circolari e risoluzioni ancora. Ottimo, delle entrate. Perfetto. Allora, tra l'altro, Cristiano, stavamo anche scherzandoci un po' a microfoni spenti, ma questo è un tema davvero di larghissimo interesse. Se organizzassimo una puntata a settimana, sicuramente continueremo a raccogliere tantissimo consenso fra i nostri ascoltatori, perché per fortuna come dire, i lavori di ristrutturazione nelle case si fanno costantemente. Sicuramente poi anche tutto il pacchetto fiscale che è stato messo a disposizione negli ultimi anni ha ha agevolato notevolmente tutto questo. E con un po' di come dire, dispiacere anche guardiamo quest'anno alla fine degli incentivi per il 55% del 55%, quelli che appunto permettono di riqualificare dal punto di vista energetico le case, il patrimonio edilizio, perché per appunto quest'anno probabilmente scatterà lo stop a questo incentivo. Guarda, diciamo che l'anno scorso alla fine del 2010 abbiamo vissuto un tira e molla quasi estenuante, poi alla fine c'è stata la proroga di un anno. Per non sbagliare dobbiamo dire che ad oggi l'incentivo c'è e questa tornata rappresenta l'occasione giusta, forse l'ultima, per beneficiare anche della detrazione del 55%, che quindi consente di ottenere il rimborso fiscale di più di metà della spesa, quindi è decisamente un'opportunità interessante. Se ci saranno proroghe lo vedremo, certo i chiari di luna da un punto di vista della finanza pubblica non sono i migliori, è verosimile che ci sia quantomeno una rimodulazione. In parte già l'abbiamo vista. Esatto, perché da 5 anni siamo passati allo spalmamento, chiamiamola così, insomma, la suddivisione in 10 anni della restituzione dell'incentivo. Questa è una cosa importante perché le spese sostenute fino alla fine dell'anno scorso, quindi fino al 31 dicembre, hanno la ripartizione in 5 anni, quindi vengono recuperate nell'arco di 5 dichiarazioni dei redditi. Quelle invece sostenute a partire dal 1 gennaio vengono recuperate in 10 anni. E ci sono tante altre novità anche da raccontare che sono intervenute in questi ultimi mesi. Noi però adesso, prima di cominciare anche a sentire i vostri quesiti, un riepilogo generale che facciamo come sempre con la nostra scheda. Ottenere la corrente elettrica tramite pannelli fotovoltaici o acqua calda con i sistemi di solare termico ormai è potenzialmente realizzabile in ogni casa, favorendo l'ambiente e garantendo un notevole risparmio sulle bollette della luce o del gas. Se fino a qualche anno fa gli impianti avevano un costo non accessibile a tutte le tasche, oggi lo Stato viene incontro ai cittadini, proponendo incentivi fiscali non solo per le ristrutturazioni edilizie, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione vera e propria, manutenzione ordinaria, ma anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, impianti di climatizzazione, installazione di pannelli solari e fotovoltaici, eccetera. E tradizionalmente chi decide di intraprendere lavori di qualunque tipo nella propria abitazione lo fa approfittando della bella stagione. Guardando gli anni scorsi, ad esempio, da aprile a luglio sono stati avviati la metà dei lavori che godono dell'agevolazione del 36%, vale a dire quelli per le ristrutturazioni edilizie, per un importo massimo di 48.000 euro. Chi invece desiderasse pianificare interventi per la riqualificazione energetica di casa deve comunque affrettarsi. L'ecobonus, infatti, è stato prorogato fino al prossimo 31 dicembre, anche se con un recupero spalmato in 10 anni, invece dei precedenti 5. Infine, bisogna ricordare che la finanziaria 2010 ha confermato anche la possibilità di applicare l'IVA agevolata al 10% agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo delle abitazioni private. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi, oppure scriveteci al 349 238 6666 o all'indirizzo di posta elettronica salvadanaio@radio24.it. Dottor Zandonà, direttore dell'ufficio fiscalità edilizia dell'ANCE, l'associazione appunto dei costruttori italiani, e anche esperto di questioni fiscali per il Sole 24 Ore, puntualmente interpellato sui temi di questa mattina. Ricordiamo un po' la regola anche di base per godere degli incentivi di cui stiamo parlando questa mattina. Tutti i lavori vanno pagati con bonifico, e lei è l'autore delle pagine proprio su questo argomento questa mattina sulla guida pratica del Sole, altrimenti il diritto alla detrazione ce lo dimentichiamo, ce lo possiamo proprio scordare perché non ce lo riconoscono naturalmente. Esatto, cioè tutte le spese devono essere completamente pagate con bonifico bancario o postale, anche online, e da qui risulta appunto la causale del versamento, cioè lavori di ristrutturazione o di riqualificazione energetica, eventualmente citando anche i termini della legge. E poi indicando anche la partita IVA del soggetto che esegue i lavori o da cui si acquista i beni, e ovviamente il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione. Ecco, lei stamattina nel suo articolo cita anche la circostanza in cui per effettuare un lavoro di ristrutturazione che poi abbia appunto l'obiettivo di vedersi riconoscere l'incentivo, per esempio del 36%, ammettiamo che questo lavoro l'abbiamo fatto attraverso la richiesta di un prestito al consumo. In questo caso appunto la compilazione del bonifico bancario va fatto in termini diversi? Nel senso, il pagamento va fatto sempre con bonifico bancario, però ovviamente la finanziaria o la banca, il soggetto quindi finanziatore, effettua un pagamento per conto di terzi, quindi a nome ovviamente del proprietario dell'abitazione o del locatario accomodatario, che quindi sostiene le spese e paga mediante il finanziamento, e ovviamente pagando con bonifico bancario ha diritto alla detrazione, quindi è sostanzialmente il mutuo, il prestito, che deve essere corrisposto all'impresa esecutrice dei lavori o al soggetto che comunque vende il bene mediante bonifico bancario o postale. Ci sono dei casi in cui invece non c'è obbligo di effettuare il pagamento con bonifico, per quali tipi di spese? Si tratta delle spese che ordinariamente non è di agevole effettuazione il bonifico bancario, e quindi innanzitutto tutti quelli che sono gli oneri fiscali e anche di carattere concessorio, ad esempio se io devo richiedere una DIA, una super DIA o un permesso di costruire che serve per abilitare sotto il profilo urbanistico i lavori, in questi casi ovviamente il pagamento dell'onere concessorio al comune non deve essere effettuato con bonifico bancario. Oppure ad esempio se io faccio un intervento sulla facciata e ovviamente devo mettere dei ponteggi, pagherò la TOSAP, cioè la tassa di occupazione di spazi aree pubbliche, anche questa non chiaramente deve essere effettuato il pagamento con bonifico bancario, ovvero anche nell'ipotesi di ritenute di legge fiscale, ad esempio se faccio lavori condominiali e l'amministratore dovrebbe fare la ritenuta del 4%, anche questa ovviamente non deve essere versata con bonifico bancario, e comunque i bolli e tutti quelli, anche le spese e gli oneri di carattere anche contributivo inerenti alla progettazione, sono tutte spese che possono essere pagate con bonifico bancario. Ecco, quando noi parliamo di tutto il pacchetto delle detrazioni possibili, appunto, di cui possiamo beneficiare per riqualificare la nostra casa, per eseguire lavori di manutenzione straordinaria o per magari proprio riqualificare dal punto di vista energetico, continuiamo a parlare sempre solo ed esclusivamente del pacchetto che consente appunto il riconoscimento della detrazione del 36%, quella del 55%. Parliamo un po' meno dell'IVA ridotta al 10%, Cristiano Dell'Oste, appunto, che è ormai un'agevolazione a regime. Questa peraltro non dovrebbe avere nessuna scadenza né nel dicembre di quest'anno né nel dicembre del prossimo anno. È così, è una possibilità sicuramente interessante, perché di fatto si va ad applicare l'aliquota al 10% anziché quella diciamo ordinaria al 20%, e sostanzialmente ne possono beneficiare la maggior parte dei piccoli interventi che vengono realizzati in ambito domestico, delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, quindi anche lavori, se pensiamo alle manutenzioni ordinarie, che se fatti all'interno delle singole unità abitative non avrebbero il 36%, che appunto nei singoli alloggi, per capirci, è riservato soltanto alle manutenzioni straordinarie. Quando poi si tratta di IVA, è bene fare anche attenzione, perché una delle cose che spesso succedono, lo vediamo anche nei quesiti che ci arrivano, è che poi l'impresa, vuoi per comodità, vuoi per semplicità, o anche per evitare di farsi consegnare dal committente, quindi dal proprietario, l'autocertificazione con cui si dichiara di aver diritto all'agevolazione, tende a volte ad applicare l'IVA, diciamo, di default automaticamente al 20%. Quindi bisogna fare attenzione, e bisogna fare attenzione anche a quella normativa specifica, di cui noi insomma spieghiamo un po' come funziona all'interno della guida, che riguarda i cosiddetti beni significativi, che sono una lista di beni, tra cui per esempio ci stanno i sanitari, gli infissi, i condizionatori, eccetera, che sono elencati da un decreto ministeriale del 1999 e che, semplificando molto, poi magari possiamo andare più avanti nei dettagli, dopo, esatto, sì. Hanno una parte di IVA al 10% e una parte al 20%, esatto, quindi vanno un bene. Po'. Poi faremo l'elenco di tutti i sanitari che hanno l'IVA differenziata. Allora ci fermiamo, poi alla ripresa di Salva Danaio sentiremo subito le domande di Andrea da Pordenone e Paola da Monza, a cui chiedo solamente un minutino di pazienza, devono ascoltarsi un po' di pubblicità, il Meteo, ma noi torniamo subito. C'è la ripresa di Salva Danaio, questa mattina ritorna su un cavallo di battaglia del Sole 24 Ore di Salva Danaio, ma anche delle famiglie italiane, cioè il fatto di fare lavori in casa per anche farsi riconoscere i corposi bonus fiscali che da qualche anno appunto lo Stato riconosce a chi esegue lavori di manutenzione straordinaria nella propria abitazione, ma anche lavori che permettono il risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli edifici, il famoso 36%, il famoso 55%. Questa mattina c'è la guida pratica del Sole Sole in edicola, una guida pratica che è allegata in via anche straordinaria. Se avrà successo, probabilmente allegheranno un dossier online anche a tutti i temi che verranno pubblicati nelle prossime settimane. C'è questo dossier online, appunto, abbinato alla guida pratica, che in sostanza vi permette, appunto, di come ci spiegava prima Cristiano Dell'Oste, di conoscere tutti i termini della materia, ma anche, per esempio, di vedere la modulistica che va compilata, per esempio, se dovete fare un lavoro, a chi vi dovete rivolgere. Ci sono dei video con gli esperti e tutte le istruzioni, appunto, interattive per compilare correttamente la documentazione legata a questi lavori. Stamattina con noi Cristiano Dell'Oste, Marco Zandonà della fiscalità, appunto, dell'ANCE. Ci ha raggiunto anche l'ingegner Giovanni Gasparini, presidente del Centro Studi Tecnico Urbanistici di Confabitare. Ingegnere, buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie di essere intervenuto a Salva Danaio. Allora, noi abbiamo già spiegato di nuovo tutta la questione all'inizio della trasmissione, ingegnere, per cui non ci ritorniamo sui termini, diciamo, sia di legge che permettono, appunto, di fare le richieste di questi incentivi fiscali, perché poi tra l'altro ci siamo anche andati tante altre volte. Andremo subito, se lei è d'accordo, e le prime domande le faccio già a lei, ai quesiti dei nostri ascoltatori, così almeno cominciamo subito ad essere interattivi con gli amici che ci seguono da casa. Allora, si era prenotato da un po' Andrea da Pordenone, che saluto. Andrea. Sì, buongiorno. Buongiorno. Sto ristrutturando un'abitazione che è un fabbricato C3, quindi non ha abitabilità, non ha impianto di scaldamento, non posso usufruire del 55%, ma utilizzo solo i benefici del 36%. Una ristrutturazione radicale. Esatto, la ristrutturazione è corposa. Quindi, siccome non riesco a far confluire, diciamo, tutte le spese nella prima mandata del 36%, mi chiedevo se, aprendo una nuova DIA il prossimo anno, quindi a casa ad abitazione già conclusa con abitabilità e tutto, aprendo una nuova DIA il prossimo anno per costruire un porticato su due lati e per sistemare la recinzione, mi chiedevo se potevo usufruire nuovamente di un nuovo 36%, e se nel caso il caso fosse positivo, mi chiedevo se contraendo matrimonio nel frattempo questo 36% potrebbe essere messo a carico della mia futura moglie. Ah, allora, qua insomma ne abbiamo veramente un po' per tutti, per i nostri ospiti. Intanto, Andrea, io le faccio una domanda banale: non credo che i lavori che farà l'anno prossimo li eseguirà nelle stesse, appunto, strutture della casa sui quali li sta facendo adesso, perché comunque ci ha detto che vorrà fare delle cose nuove, il porticato e quant'altro, per cui così io immagino teoricamente che sarà possibile aprire una nuova condizione fiscale, una nuova posizione fiscale. Andrea, me lo conferma questo? Sì, sì, ma vabbè, il porticato è praticamente è un prolungamento della casa sostanzialmente, certo. È un portico che viene fatto su due lati per tipo una terrazza, insomma, ecco. Mentre la recinzione è nelle pertinenze comunque dell'abitazione, perché vado a sistemare la recinzione di tutto il giardino, di tutta la va bene pertinenza. Andrea, grazie. Allora, ingegner Gasparini, vengo da lei, poi vado anche a Marco Zandonà, naturalmente, per rafforzare evidentemente la risposta se sarà necessario. E allora, che cosa venisse a confabitare il nostro ascoltatore, insomma, che tipo di consulenza gli farebbe? Sì, direi che essendo un nuovo lavoro rispetto a quello preesistente, mi sembra del tutto legittimo che presenti una nuova DIA, una nuova SCIA, adesso è un nuovo permesso di costruire, e quindi sono lavorazioni, se ho capito bene, completamente diverse da quelle che ha appena o che sta facendo, per cui ne ha diritto, ovviamente, se poi ci sarà la proroga per il prossimo anno 2012, cosa che non salterà fuori. Ecco il discorso. No, beh, per il 36% è già confermato che c'è fino alla fine del 2012. Sì. Ecco, infatti mi fermo, perché poi il discorso fiscale e la moglie, io sono un tecnico, quindi certo. Non so rispondere al discorso. No, e allora adesso vado a Marco Zandonà per questo. Lui dal prossimo anno, avendo anche una nuova condizione familiare, potrà eventualmente suddividere gli incentivi con la contribuente acquisita dal punto di vista matrimoniale, dottor Zandonà. Ovviamente, in caso in cui ci sia convivenza tra i due coniugi, perché questo è il requisito necessario, in ogni caso anche la moglie, per le spese sostenute dopo il matrimonio, ovviamente, potrà concorrere in quanto familiare convivente alla detrazione del 36%. Tra l'altro c'è una cosa che non ricordiamo frequentemente, ma forse vale la pena anche qui rifare un punto della situazione, Cristiano, perché noi diciamo insomma 36% su tutti i lavori che si fanno, ma insomma c'è anche un importo massimo, un tetto massimo di spese da sostenere, oltre il quale ovviamente poi il 36% non viene più riconosciuto. Certo, viene applicato fino a 48.000 euro di spesa. Quindi per contribuente o per unità abitativa? No, per unità immobiliare. E in ogni caso quindi capiamo bene che il 36% diventa 17.280 euro, se non ricordo male, sì. E sono quindi 1.700 rotti euro all'anno al massimo di recupero, immaginando il recupero appunto sui 10 anni. Si poteva aggiungere forse una cosa nella risposta al caso di Andrea, al caso dell'ascoltatore, perché magari su questo è interessante sentire anche cosa ne pensa Zandonà. Trattandosi della chiusura di un porticato, se il porticato c'è già, quello dovrebbe essere un ampliamento, quindi tipico lavoro diciamo di quelli casa. Da piano casa, che però essendo un'addizione volumetrica non dovrebbe dare luogo al 36%. Invece se si va a ristrutturare la recinzione, allora a quel punto per quella spesa della recinzione sì, però insomma chiediamo conforto. Sentiamo un po' i nostri esperti da questo punto di vista. Zandonà. Dunque, il porticato, se è un porticato aperto e quindi di nuova costruzione ed è aperto, ovviamente non ci dovrebbe essere un aumento volumetrico, quindi l'agevolazione potrebbe essere ammessa. Ad esempio la creazione di un nuovo balcone è espressamente prevista tra gli interventi agevolati con il 36%, quindi se è aperto. Se invece è chiuso, ovviamente ha ragione dell'oste, nel senso che è un ampliamento volumetrico e quindi non è ammissibile ai fini del 36%. Sentiamo anche l'ingegnere che cosa ne pensa. Si era posto questo problema, ingegner Gasparini, con Fabitare? Sì, sono d'accordo. Bisogna fare, condivido il condizionale che usano I colleghi, i consulenti, sì. Perché tutto questo va rivestito sul comune e sul regolamento edilizio del comune. Quindi parliamo di leggi regionali e parliamo di regolamenti del comune. Quindi linea di massima va benissimo e sono d'accordo, di solito non fa volume un porticato aperto, ecco, fatto salvo la verifica del regolamento edilizio comunale, perché delle volte i regolamenti edilizi contrastano un po' con queste cose. Allora, linee condizionali, in linea di massima sono completamente d'accordo. Ma sì, infatti poi me lo ricordo anche quando abbiamo fatto le decine di puntate sulle piano casa, Cristiano. Come effettivamente, no, certo. Tutta la cornice legislativa nazionale che si è scontrata ovunque. Esattamente. Certo, si declina su base regionale e comunale, certo. Allora, andiamo a Francesco dalla provincia di Pisa. Francesco. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Posso fare la mia certamente, domanda? Certamente. Sì. Io volevo sapere se le detrazioni del 36% e del 55% si applicano solo all'abitazione principale o anche ad una seconda casa. Grazie Francesco. Ecco. Sì, poi? Poi, ho letto stamani sulla guida del Sole 24 Ore che bisogna presentare la documentazione dell'ICI a partire dal 97. Io sono entrato in possesso della casa che vorrei ristrutturare dal 2002. Ecco, dovrei presentare la documentazione a partire da quella data. Ah, dove l'ha letta questa cosa, tra l'altro? Questa sulla guida. Ai fini dell'ottenimento di che cosa? Del 36%, mi suggerisce Cristiano. Sì. Ah, però, sì. Insomma, significa che uno deve andare a ritroso nella ricerca di questa documentazione tutti questi anni. Salto sulla sedia anch'io. Ho avuto in eredità da mia madre questa casa, e però non so, appunto, stamani mi sono messa a guardare se trovavo i versamenti dell'ICI per gli anni precedenti, sono riuscita a trovarli, e questo mi ha messo un po'. Allora magari si possono rintracciare dei documenti presso il comune. Allora andiamo un po', Cristiano, cosa hai scritto sta cosa qua che ci sta facendo spaventare? Vuol dire che io se devo ristrutturare quest'anno devo andarmi a cercare tutti le ICI versate dal 97 in avanti? Allora l'ICI è una delle cose che si devono allegare al modulo per la comunicazione di inizio lavori al centro operativo di Pescara, esatto, quello che va spedito. Peraltro si può anche autocertificare di possedere questi e gli altri documenti, quindi anche ad esempio la comunicazione di inizio attività edilizia o la DIA, eccetera eccetera. Ma nel caso specifico dell'ICI, sì, vanno ovviamente recuperate le ricevute dal 1997 in poi, se dovute, dice la norma. In quali casi sono dovute? Se è un'abitazione principale, dal 2008 in poi non è più dovuta. E poi ovviamente se la casa è stata acquistata in una data successiva, io dovrò produrre la documentazione dal momento in cui ne sono proprietario, ecco. Certo, quindi, dal momento in cui l'ho acquisita. Ecco, nel caso invece di, del nostro ascoltatore Francesco da Pisa, che ha ereditato l'abitazione, chiedo a Zandonà, così adesso così gli ci metto anche un po' di successioni. Zandonà, come dovrà comportarsi l'ascoltatore? Quanto indietro dovrà andare nel tempo a recuperare questa... Da quando è diventato proprietario, come ha detto giustamente Cristiano dell'Aoste, cioè dal 2002 lui è proprietario e quindi deve ovviamente pagare l'ICI, fino a quando ovviamente l'ICI sulla è stata dovuta, quindi fino al 2000. È dovuta sostanzialmente. Poi volevo rispondere anche sul fatto che della seconda casa, prima o seconda casa, in un'abitazione principale lì ci sarà sicuramente dovuta, quindi esatto, anche è vero, anche dal 2008 in avanti. E ovviamente la detrazione del 36% si applica sicuramente non solo sulla prima casa, anche sulla seconda, anche sulla decima, quindi per tutte le abitazioni possedute o detenute. Allora, benissimo, ecco, intanto insomma tra l'ICI del nostro ascoltatore, prima, seconda casa, Pisa e Pordenone, siamo arrivati ai suggerimenti per chi in viaggio, tra poco. Come per tutte le trasmissioni che facciamo su qualsiasi argomento, c'è sempre un caso che ci portiamo dietro per tutta la trasmissione. Oggi l'abbiamo già individuato, è quello del porticato di Andrea da Pordenone, che nel frattempo ci ha scritto anche un SMS, quindi lo salutiamo. È un porticato aperto da costruire da nuovo, al momento non è esistente, per cui siccome con Cristiano Dall'Osso ci stavamo chiedendo se fosse un porticato poi da chiudere, per cui permette ampliamento della volumetria dell'abitazione, questa è una risposta che precisa ulteriormente i termini della questione. Se è un porticato che lui costruisce, rientriamo nel caso che citava Zandonà prima, quindi la costruzione del balcone, e quindi siamo sicuramente nella possibilità di avere la detrazione. Benissimo, allora intanto un'altra considerazione che volevamo fare con Cristiano, prendendo a spunto un commento un po' divertito da parte di un ascoltatore che, commentando gli incentivi fiscali di cui parliamo stamattina, di cui abbiamo parlato tante volte, dice: sì, lo Stato che ti regala, che ridere. Allora, non è che lo Stato insomma ha riconosciuto questi benefici fiscali in questi anni così tanto per essere magnanimo, perché ovviamente siamo in un paese in costante campagna elettorale, ma c'è una contropartita fondamentale, Cristiano. Diciamo che è un regalo interessato, nel senso che è un'agevolazione che è stata dettata, quella del 36%, ormai più di 10 anni fa, con un obiettivo, diciamo con un interesse pubblico sottostante, che è quello dell'emersione del lavoro nero. L'edilizia, in particolare la piccola edilizia, i lavori domestici, è uno dei settori caratterizzati dalla maggior presenza, dalla maggior diffusione di sommerso, di lavori fatti senza fattura, di imprese magari che tendono a sottofatturare pesantemente gli importi dei lavori eseguiti. La detrazione del 36%, in particolare con l'obbligo di effettuare i pagamenti con bonifici, cui risultano la tracciabilità, sia gli estremi del soggetto privato che quelli dell'impresa, garantisce la piena tracciabilità, e questo consente alle entrate di fare accertamenti mirati e precisi. E poi c'è anche un'altra cosa da dire, che vale in particolare per il 55%, che queste misure, condizionando la possibilità di avere l'agevolazione a determinate caratteristiche tecniche dei prodotti, pensiamo ad esempio alle finestre con i doppi vetri isolanti, hanno anche favorito una graduale crescita degli standard produttivi del mercato. Questo vale anche per i pannelli solari, favorendo anche una riduzione dei costi via via con il passare degli anni. E poi, ultima considerazione che ha pesato probabilmente nella proroga di un anno ancora del 55%, in un periodo di forte crisi per l'edilizia, una detrazione che rimborsa più di metà dell'importo. È vero, il privato deve spendere, quindi i 100 iniziali io ce li devo mettere, però nell'arco di un decennio riesco a recuperare più di metà dell'importo, e questo fa sì che vengano effettuati alcuni lavori che in assenza della detrazione non verrebbero effettuati, quindi c'è anche un effetto moltiplicatore da questo punto di vista. Infatti una sorta di indotto in questi termini. Andiamo ancora ad un altro paio di questioni poste dai nostri ascoltatori, andiamo a Paola da Monza. Paola, buongiorno. Sì, buongiorno e grazie della vostra splendida trasmissione. Grazie Paola. Dunque, il fatto è questo: io ho una villetta con due unità immobiliari, entrambe di mia proprietà, e vorrei capottare tutta diciamo l'esterno della villetta, e quindi penso di poter avere diritto al 55% di detrazione. Ecco, però la fattura di tutti i lavori sarà con data 2011, però le rate che io pagherò, perché non posso pagare. E certo, è un lavoro bello impegnativo, immagino. Ecco, le pagherò anche nel 2012 e metà del 2013. Uh-huh. Ecco, anche su queste rate la domanda è: ci sarà la possibilità di dedurre il 55%? Certo, allora se praticamente la fattura le viene rilasciata immediatamente, poi il pagamento avviene dilazionato, in che termini poi si può fare appunto la detrazione fiscale? Marco Zandonà. Ai fini del 55% ma anche del 36% vale il cosiddetto principio di cassa, cioè la data di pagamento con bonifico bancario o postale. Quindi se io pago nel 2011 una somma e poi nel 2012 non ci sarà, speriamo che ci sia la proroga del 55%, quello che pagherò nel 2012 non rileverà ai fini del 55%. Allora, stavo guardando anche un'altra questione posta da Alessandro, che se non mi ricordo male adesso perché l'ho richiuso, ma è ampiamente toccato anche nella guida pratica di questa mattina. C'è un ascoltatore, appunto Alessandro, che ci racconta che sta acquistando un'abitazione che è in fase di ristrutturazione. Purtroppo nessuno mi ha saputo spiegare in che misura posso beneficiare degli sgravi fiscali. È possibile che neanche l'impresa che sta facendo la ristrutturazione sia in grado di dare informazioni chiare ad un utente, ad un contribuente? Gasparini, vengo da lei, ci dica un po' come si deve comportare in questi casi, poi magari vado anche a Zandonà. Lei mi sa dare qualche suggerimento? Beh sì, come minimo sentite qualche consulenza di fiducia, insomma se proprio l'impresa è il discorso che si diceva prima, è l'emersione del nero, probabilmente l'impresa ha poco interesse a reclamizzare la cosa, poi sempre nell'emersione del nero aggiungo c'è anche la sicurezza dei luoghi di lavoro, ci sono anche tante altre cose, contributi non pagati agli operai, quindi c'è tutta un'emersione di cose. Per cui se l'impresa fa finta di non sapere, poi ci sono le associazioni di categoria, bisogna sentire da quelle, ovviamente le sanno dare tutte le informazioni. Però no, allora vado anche a Marco Zandonà, in questo caso l'incentivo fiscale per una casa che è in fase di ristrutturazione, ma della quale evidentemente magari Alessandro non è ancora entrato appunto in proprietà, e l'impresa che sta ristrutturando sta beneficiando degli incentivi fiscali che può eventualmente poi trasferire sugli acquirenti dell'immobile? Zandonà, in queste circostanze come funziona? No, l'impresa non può fuire del 36%, ma colui che acquista sì. In ogni caso ci sono delle condizioni di legge, però, quindi evidentemente forse l'intervento non riguarda l'intero edificio, perché le condizioni sono che l'impresa deve ristrutturare integralmente un intero edificio, poi l'acquirente di una singola unità immobiliare ha diritto al 36%, ma che viene calcolato in maniera forfettaria e non analitica, cioè in base alle spese sostenute, ma in misura pari al 25% del corrispettivo contrattuale e comunque su un importo non superiore a 48.000 euro. Quindi in ogni caso la detrazione massima è sempre quel famoso 17.280 da ripartirsi in 10 anni. Quindi l'impresa, se sta ristrutturando l'intero edificio ed è poi l'impresa che andrà a cedere la singola unità immobiliare, la detrazione sicuramente si applica. Nell'ipotesi in cui un'impresa stia ristrutturando solo una singola unità immobiliare all'interno di un edificio, allora in questi casi è questo probabilmente che evidentemente non ricorre la fattispecie, e quindi l'impresa gli ha detto l'agevolazione non ti spetta. Ho capito. Allora, niente, ho 20 secondi di tempo, non credo di riuscire a fare. Ma sì, Bruno da Empoli voleva sapere se per rifare l'intonaco e imbiancare l'esterno di casa appunto gli può far beneficiare di questi incentivi. Cristiano, abbiamo risolto il tema dell'intonaco sul quale ci stavamo interrogando prima a microfoni spenti. Ma diciamo che se, insomma, essendo una manutenzione straordinaria dovrebbe riuscire ad avere il 36%. Allora, noi ci fermiamo perché adesso abbiamo la nostra consueta rubrica, che peraltro volge al termine, una rubrica legata allo svolgimento a partire da mercoledì 6 del Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni a Milano. Noi vi abbiamo invitato in queste ultime settimane a lasciarci le vostre domande sul tema del risparmio gestito alla segreteria telefonica 800 28 12 12. Vi stiamo rispondendo ed ecco la domanda che abbiamo scelto oggi. Radio 24 e Assogestioni presentano le domande del risparmio. Sì, pronto, buongiorno. Vorrei fare un investimento a breve termine. Mi è stato proposto di acquistare dei fondi di liquidità. potreste darmi qualche informazione in più? Grazie. I fondi monetari o di liquidità acquistano titoli di natura monetaria, obbligazioni statali a breve termine e pronti controtermine. Hanno un indice di rischio molto ridotto, riconducibile in gran parte alla quasi inesistente probabilità di insolvenza degli emittenti e alle possibili oscillazioni dei tassi di interesse a breve termine, vista la brevissima durata media dei titoli in portafoglio, BOT, CTZ, talvolta CCT. I fondi monetari possono essere considerati un'alternativa alla liquidità di conto corrente. Permettono di percepire un piccolo interesse, in linea con il rendimento dei BOT, dato dalla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita. Le domande del risparmio. Per tutte le domande invece sulle ristrutturazioni a cui non abbiamo risposto questa mattina, io vi invito a scriverci se volete a salvadanaio@radio24.it, ma anche a collegarvi al sito del Sole, www.ilsole24ore.com/guidacasa. Lasciate lì i vostri quesiti, domani troverete alcune risposte sul Sole 24 Ore, a partire da mercoledì sempre a questo indirizzo sul sito del Sole 24 Ore, dove c'è anche il dossier online molto articolato, molto completo. Lo potete acquistare online al costo di 4 euro. Insomma, ho fatto una bella campagna pubblicitaria, Cristiano adesso in cambio mi offre il caffè però, presto. Grazie a Cristiano Dell'Oste, a Marco Zandonà, l'ingegner Giovanni Gasparini per essere stati con noi. Noi torniamo domani, buona giornata a tutti.